Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Questi sono i suoni che vengono da Manchester perché la guerriglia, l'anarchia nel Regno Unito si è spostata. A Londra regna apparente la calma, mentre a nord i focolai di rivolta si stanno espandendo. Buona giornata, gentili ascoltatori, bentornati a una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. In redazione con me è Riccardo Poli, in regia c'è Mauro De Angeli. I contatti per interagire con noi sono SMS 349-238-6666 e poi la mail nessunluogo@radio24.it oppure la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Notte calma a Londra, dicevo, ma disordini sono venuti ancora a Birmingham e nelle Midlands. Resta un mistero la morte di tre giovani appunto a Birmingham investiti da un'auto. Ancora non si capisce se il fatto è collegato agli scontri, ma intanto si è fatto sentire il fratello di Mark Duggan, il giovane la cui morte ha innescato le violenze. We're not condoning any kind of actions like that at all. La mia famiglia condanna ogni tipo di azione violenta fatta in nome di mio fratello. Ho sentito molte notizie oggi. La stampa sta dicendo che le violenze sono collegate con mio fratello. Non posso negare però che ci sia un effetto domino. Purtroppo dobbiamo aggiornare il bilancio della guerriglia londinese perché il Daily Telegraph via Twitter ci informa che è morto in ospedale l'uomo di 45 anni aggredito dai saccheggiatori a Ealing a Londra mentre tentava di spegnere un incendio nei giorni scorsi. Allora cerchiamo un attimo di fare ordine, di ricapitolare quelli che sono i fatti. Quattro notti di scontri dopo l'uccisione di Mark Duggan, il giovane di colore che non avrebbe sparato contro la polizia prima di essere colpito dagli agenti. La posizione giudiziaria quindi delle forze dell'ordine si potrebbe complicare nelle prossime ore. E poi a Manchester 108 arresti, Manchester e Salford, e ancora hanno stimato i danni delle quattro giorni, quattro notti di guerriglia in 100 milioni di sterline. Infine, la polizia è stata autorizzata a usare i plastic gun, i fucili che sparano i proiettili di plastica, che non sono mai stati usati in Inghilterra, ma sono tristemente noti nelle sei contee nordirlandesi del Regno Unito. Che cosa sono? Sono fucili di precisione che sparano bossoli di plastica piuttosto proiettili di plastica piuttosto grossi. Sono proiettili che vengono utilizzati, normalmente si mira con colpi di rimbalzo alle gambe, provocano grossi ematomi, ferite guaribili in una settimana, 10 giorni, ma come dire, neutralizzano gli street fighter. E infine, questa mattina Londra si è svegliata appunto più calma con i cittadini che sotto lo slogan Riots Clean Up si sono armati di scope e ramazze e hanno ripulito appunto i quartieri, tanti quartieri londinesi che erano stati invasi dagli street fighter. Allora, l'istantanea di Londra, com'è Londra questa mattina, la chiediamo a Mimì Mollica, che è un fotogiornalista italiano che lavora e vive a Londra. Mimì, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa hai visto stamattina dopo 3 giorni, 4 notti di scontri? Che fotografia ci puoi raccontare dalla capitale inglese? Dunque, questa mattina era Dalston, tutto calmo, nel quartiere di Hackney, dove ci sono stati degli scontri abbastanza gravi nei giorni passati, ma stamattina appunto regna la calma. Mentre fino a ieri sera, anche se non ci sono stati scontri importanti da segnalare, si respirava un'area di alta tensione e tutti si stava allerta e soprattutto ci si muoveva con molta cautela. Ecco, Mimì, in questi giorni tu hai seguito appunto questi scontri, queste vicende, che idea ti sei fatto ficcando l'obiettivo in mezzo a questi episodi di cronaca? Beh, l'idea che mi sono fatto è che questi scontri, che apparentemente sono legati ai fatti relativi all'uccisione del giovane nero, sono invece sintomi di un di problemi sociali ben profondi nella capitale britannica, dove c'è una divisione ancora impressionante tra ricchi e poveri, relegati in quelle che chiamano le estates, che sono appunto nei quartieri dove si sono dove si sono accaduti appunto questi scontri. Hackney è uno di questi, è uno tra i quartieri più larghi e più poveri della capitale britannica, e appunto ci sono stati scontri, saccheggi e incendi in tutta la capitale. Non so se sentite nel background ancora le sirene. Ed è stato un continuo di sirene da sabato fino a ieri sera. Stamattina si sentono qua e là, ma devo dire che anche guardando al balcone c'è abbastanza calma. Regna la normalità. Sì. Ecco. Mimi, telegraficamente, un'ultima istantanea, sì. Come si è comportata la polizia? Com'è stata la gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine inglesi? Dunque, bisogna secondo me distinguere, ci sono due livelli, il livello di strada vero e proprio, dove le forze della polizia si sono comportate molto molto molto bene, sono riuscite a contenere per quello che potevano, anche se i numeri non lo consentivano appieno, sono riuscite a contenere la folla senza per questo provocare reazioni ancora più aspre da parte dei rivoltosi. Devo dire che però i primi giorni di rivolta, dove appunto si sono succeduti scontri molto duri, incendi e saccheggi gravissimi, purtroppo il numero della polizia nelle strade non era sufficiente, tant'è che da ieri sera il numero è incrementato da 6.000 a 16.000 unità per le strade. Per questo devo dire regna la calma, però come dal punto di vista tattico la polizia ha fatto un ottimo lavoro. Grazie allora Mimi Mollica per queste tue istantanee da Londra, una buona giornata, buoni scatti, buon lavoro. Buongiorno, grazie. E da oggi la stampa, le radio, le televisioni si stanno interrogando sulle motivazioni, sul perché, i perché più profondi di questi disordini. Si azzardano a volte anche parallelismi un po' forse appunto azzardati. Cercheremo di capire meglio quanto la storia incide sui disordini di adesso. Si è parlato degli episodi di Brixton dell'85, ma anche gli episodi di violenza nelle banlieue parigine del 2005. Ci sono punti di contatto, sì o no? È la storia metropolitana che ritorna? Giro immediatamente questa domanda a Roberto Bertinetti, docente di letteratura inglese all'Università di Trieste. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, professore, è una storia che ritorna? Soltanto in parte, credo. Ritorna nello schema, nel format iniziale, nel senso che nell'85, esattamente a Tottenham, nel punto dove la scorsa settimana sono scoppiati i primi riots, i primi incidenti, sono echeggiati i primi squilli di rivolta, come si diceva nelle canzoni degli anni Ottanta, ci fu un episodio fotocopia rispetto a quello che è stato citato all'inizio della trasmissione. Ci fu un morto provocato dalla polizia, questo scatenò una serie di disordini. Ecco, si interruppero dopo pochi giorni. Dica, prego. La interrompo perché nel frattempo arriva un messaggio di scuse dal Daily Telegraph che rettifica, il Daily Telegraph aveva dato per morto un ferito di ieri, dice: l'informazione diffusa sulla morte dell'uomo ferito dai saccheggiatori a Ealing non è corretta e quindi noi chiediamo scusa. Professore, stavamo parlando dell'episodio storico appunto di Brixton, di Tottenham dell'85, riviviamo per un istante quella storia. Il 6 ottobre del 1985, Tottenham, un quartiere a nord di Londra, venne sconvolto dalla cosiddetta rivolta di Brotherwater Farm, un'insurrezione della popolazione di colore nei confronti della polizia, nata dopo l'uccisione di una donna di origine afro-caraibica. Cinzia Jarrett venne uccisa durante una perquisizione nella sua casa da parte della polizia locale. La morte della donna fu l'episodio che innescò le rivolte in un contesto già teso tra i giovani di colore del quartiere e la polizia locale, in prevalenza bianca, accusata di aver utilizzato metodi troppo violenti contro la popolazione di Tottenham. Infatti, l'episodio di Broadwater Farm avveniva solo dopo una settimana dagli scontri di Brixton, un altro quartiere londinese, che vide l'uccisione di un'altra donna di colore da parte della polizia. Il 5 ottobre del 1985, un giovane di colore, Floyd Jarrett, fu arrestato dalla polizia dopo essere stato fermato nella sua auto per aver esposto un bollo di circolazione irregolare. Da qui la polizia fece scattare una perquisizione nella casa del giovane e quattro poliziotti fecero irruzione nell'abitazione. Durante gli scontri tra gli agenti e i familiari di Jarrett, la madre, Cinzia, di 49 anni, venne colpita facendola cadere a terra. La donna, stando alle dichiarazioni della figlia e dai referti medici, morì all'istante. Dopo un'aspra condanna da parte dei comandanti della polizia locale e dei metodi usati dai poliziotti, la morte della donna fu la molla per una diffusa indignazione tra la comunità nera verso gli agenti. La convinzione che i corpi di polizia fossero razzisti si diffuse velocemente e iniziarono le prime rivolte. La violenza tra la polizia e i giovani del quartiere subì un'escalation, con l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine di manganelli per cercare di ripulire le strade. Di contro, i giovani usarono mattoni e molotov in risposta alle cariche degli agenti. Iniziarono anche gli scontri a fuoco, con il ferimento di due agenti e di tre giornalisti accorsi sul luogo. L'apice della violenza venne raggiunto con l'uccisione dell'agente Kate Blacklock, che durante uno scontro venne circondato dai rivoltosi e ucciso a colpi di macete. Dopo questo episodio, le violenze vennero sedate, ma la polizia continuò per molti mesi a interrogare e arrestare più di 400 persone coinvolte nelle rivolte. Questo episodio portò però la polizia londinese a ripensare alle tattiche e all'equipaggiamento in dotazione. Allora, professor Bertinetti, dicevamo di questa storia che ritorna, ci sono punti di contatto ma anche punti di differenza con l'episodio dell'85. Sì, i punti di differenza si percepiscono molto nettamente guardando sulla mappa di Londra o sulla mappa dell'Inghilterra i focolai che sono esplosi, scoppiati negli ultimi giorni. Cioè, in quei casi si tratta di due quartieri londinesi, Tottenham a nord e Brixton a sud, che sono stati coinvolti, ma che erano allora, e lo sono un po' meno oggi, sacche di povertà, di disoccupazione, di emarginazione sociale, con delle minoranze, maggioranze nel quartiere di provenienza caraibica o africana. Detto questo, appunto un rapido sguardo alla mappa di Londra del Regno Unito in questo momento dimostra che questi scontri si sono sparsi a macchia d'olio sia a Londra che altrove. Questa notte Londra è stata tranquilla, come abbiamo appena sentito, ma incidenti, saccheggiamenti a Birmingham, a Manchester, nelle West Midlands e in altri luoghi. Quindi ci sono evidentemente delle differenze. Queste differenze, secondo me, dovendo riassumerle in poche battute, sono nel fatto che sì, esiste una minoranza diciamo emarginata che fa da manovalanza alla rivolta. Esistono le gang giovanili, oltre 200 a Londra, che sono sempre disponibili a menare le mani. A Londra, in periodi tranquilli, cioè durante un anno normale, ci sono oltre 100 adolescenti morti per ferite di arma di coltello. In alcune zone ci sono i poliziotti obbligatori all'interno delle scuole superiori. Sì. Quindi esiste già un terreno di coltura di violenza abbastanza predisposto, che ha radici storiche, ha radici antiche. Il secondo elemento naturalmente è la crisi economica. La crisi economica che ha colpito duramente l'Inghilterra dal 2008 negli ultimi tre anni ha, diciamo, costretto i governi, laburista prima e conservatore oggi, a tagliare massicciamente la spesa sociale. Professore, la interrompo proprio sul tema economia perché c'è l'informazione finanziaria, vediamo come vanno le borse, poi di nuovo anarchia in UK a Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. L'anarchia che regna in parte del Regno Unito, di questo stiamo parlando oggi a Nessun Luogo è Lontano. Vi ricordo gli sms 349-238-6666, la mail nessunluogo@radio24.it, la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano per porre domande a me o ai miei ospiti. Stiamo parlando proprio con il professor Bertinetti dell'aspetto economico delle crepe che in qualche modo ha mostrato la solida economia britannica negli ultimi anni, che forse potrebbero essere alla base delle rivolte di questi ultimi giorni. Professore. Sì, dicevamo che era una delle cause. Dal 2008 ad oggi il governo Cameron, oggi il governo di Gordon Brown, quindi due primi ministri di segno politico opposto, hanno tagliato in maniera abbastanza robusta la spesa per lo Stato sociale, e quindi questo ovviamente in alcune parti del paese ha causato un malcontento diffuso che si è venuto scatenando. Collegato sia poi indirettamente alla crisi economica e al modello di società occidentale che lo sviluppo economico e la conseguente crisi degli ultimi anni hanno creato, c'è una terza manifestazione sulla quale si sofferma questa mattina in un articolo di un quotidiano come il Guardian, che secondo me offre un punto di vista abbastanza originale e interessante su quale vale la pena di riflettere. L'articolo si intitola "Gli incidenti in Inghilterra, la psicologia del saccheggio", è di una giornalista che si chiama Zoe Williams. A me ha colpito una frase che riassume tutto, secondo me. Cita l'opinione, per quello che può essere un'opinione, una dichiarazione, diciamo così, di una delle persone, una signora di una certa età, che è stata, diciamo, coinvolta e anche arrestata in occasione di uno dei saccheggi in una parte di Londra. Questa signora, molto innocentemente, anzi non tanto innocentemente, alla base della motivazione, quando le è stato chiesto "ma scusi, ma perché lei insomma è qua, l'abbiamo pure arrestata", dice "ma io in realtà non ero qui per unirmi a nessuna causa politica, ero qui per le scarpe". Cioè, era per razziare un negozio di scarpe. Allora, professor Bertinetti, mi riallaccio a quello che sta dicendo lei, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che stride. David Cameron ha pochi minuti fa nuovamente indetto una conferenza stampa e ha parlato, e oltre a condannare le violenze, a dire che ci sarà una risposta molto pronta, a lodare il lavoro finora fatto dalla polizia, che cosa ha detto? Ascoltiamolo insieme. When we see children as young as 12 and 13 looting and laughing, when we see the disgusting sight of an injured young man with people pretending to help him while they are robbing him, it is clear there are things that are badly wrong in our society. E insomma, Cameron dice: quando vediamo ragazzini 12-13 anni che fanno quello che abbiamo visto, quando vediamo, e faceva riferimento a un video che circola anche sui siti italiani di un ragazzo ferito che viene aiutato dai suoi compagni di gang evidentemente a rialzarsi e poi lo derubano dal suo stesso zainetto, dice: forse allora c'è qualcosa che non va nella società inglese. Che cos'è che non va nella società inglese, secondo lei, professor Bertinetti? Ma è possibile che, siccome la società inglese è la più americanizzata dell'Occidente europeo per una serie di ragioni storiche, diciamo dal punto di vista del modello economico, non altro, cioè la terziarizzazione, i processi di dell'economia che sono andati in una certa direzione a partire dagli anni 80 in avanti, ma non per scelta di governi di tutti i colori politici, cioè i conservatori hanno governato dal 79 al 97, poi sono arrivati i laburisti fino a non poco tempo fa. Diciamo, questo tipo di modello, che è entrato in crisi un po' su entrambe le sponde dell'Atlantico, mostra tutte le sue crepe in questo momento. Quindi non è una malattia essenzialmente inglese, è una malattia più complicata, più grave forse da curare. Da questo punto di vista, secondo me, anche se un po' irriverente, David Cameron scopre l'acqua calda, nel senso che questa società fosse esposta a rischi lo si capiva già da un sacco di tempo. Cioè, mi sembra strano che Cameron adesso si metta a condannare, come dice il sito del Daily Telegraph, la Sick Society, la società malata, sì, no? Quando lui stesso ha buttato a mare gran parte dei progetti, o molti dei progetti del New Labour, altra invenzione di marketing, sì, precedente, per creare questa cosa che lui ha chiamato Big Society, che ha ripreso dai conservatori americani e che in teoria dovrebbe essere una specie di società solidale che sviluppa un senso di comunità in cui pubblico e privato miracolosamente si tendono la mano, anzi si abbracciano. Beh, quella immagine che lei citava prima dice che la Big Society non solo non esiste, ma persino all'interno delle gang giovanili non si tendono la mano, non si abbracciano. Diciamo che sì, se tendono la mano la fanno per derubarsi anche fra loro. Grazie professor Bertinetti per questa sua analisi, una buona giornata e un buon lavoro. Buona giornata a lei e agli ascoltatori, grazie. E allora, prima di voltar pagina, noi abbiamo raggiunto pochi minuti fa telefonicamente Jerome Taylor, che è uno dei giornalisti dell'Independent che sta seguendo molto da vicino le vicende britanniche. Era in viaggio verso Manchester, cioè si stava spostando dalla capitale verso nord per seguire appunto i nuovi scontri. Gli abbiamo chiesto che fine faranno e quali potrebbero essere le vicende giudiziarie dei ragazzi arrestati fino adesso. Well, there have been around about it's difficult to add up how many arrests there have been across the country. I think it's about. È difficile dire quanti saranno gli arrestati in tutto il paese. Si parla di circa 700 persone e di 150 capi d'accusa. Tutte le rivolte di solito hanno diversi capi d'accusa, come per esempio resistenza a pubblico ufficiale e aggressione. Ci saranno molti capi d'accusa, come puoi immaginare succeda in situazioni di rivolte come questa. E sempre a Jerome Taylor abbiamo anche chiesto quale potrebbe essere, qual è stato il meccanismo, l'organizzazione e se esista una leadership in queste gang che hanno messo a ferro fuoco la capitale britannica. I think what's very clear about the rioting at the moment is compared to 25 years ago, which was the last time we had. Penso sia chiaro che le rivolte di oggi sono comparabili con quelle di 25 anni fa, con l'ultima rivolta avvenuta in questo territorio. L'età dei giovani di oggi è abbastanza bassa, circa sui 18 anni. La persona più giovane arrestata in queste rivolte ha 14 anni e ce ne sono altre di così giovani in strada. 25 anni fa l'età di chi faceva parte della rivolta era più alta, si parlava di uomini di mezza età, non di ragazzi. Non c'è una singola leadership o una ragione politica in queste rivolte, questo è un processo apolitico per quello che abbiamo visto. C'è un livello di organizzazione che passa dai cellulari, da BlackBerry, con cui ci si coordina per decidere quando arrivare, dove presentarsi, in quale area della città. A Manchester l'altra sera abbiamo visto un elevato livello di organizzazione tra queste persone. Quindi questo è quello che sta accadendo in Inghilterra. Noi rimaniamo nel Regno Unito perché vi voglio parlare nuovamente della vicenda di Brendan Lillis. Vi ricordate chi è Brendan Lillis? Brendan Lillis è un prigioniero irlandese condannato all'ergastolo nella prigione di Long Cash, nell'Irlanda del Nord, nel 1977 per possesso di esplosivi. Il 59enne repubblicano ha scontato 16 anni di prigione, prima di essere rilasciato sulla parola nel 1993. Il segretario di Stato Sean Woodward però ha revocato la sua licenza nel 2009, quando fu accusato di rapina nella contea di Derry. Da quel momento è stato considerato un pericolo per la pubblica sicurezza e non gli è stato consentito di uscire dal carcere di Magaberry, dove è attualmente detenuto. All'inizio del 2011 è stato stabilito che Lillis era troppo malato per presenziare alle udienze processuali, ma avrebbe dovuto rispondere delle accuse qualora la sua salute fosse migliorata. La situazione però si è aggravata di giorno in giorno. Lillis infatti soffre di una malattia degenerativa artritica che lo costringe a letto. Attualmente il detenuto pesa 37 kg e, secondo alcuni osservatori, sta seriamente rischiando la vita. Sempre secondo queste fonti, si troverebbe in uno stato confusionale e con febbre molto alta a causa di un'infezione. Il 19 luglio scorso il Prison Service aveva affermato che non c'erano sufficienti motivi per giustificare il rilascio di Brendan Lillis per motivi umanitari. Il caso è stato quindi trasferito ai commissari della Life Sentence Review Commission. La commissione, che nell'ordinamento giuridico britannico è incaricata di giudicare se un detenuto abbia requisiti per scontare la propria pena ai domiciliari, ha ritenuto che Brendan Lillis, in quanto pericolo pubblico, non fosse idoneo alla richiesta di lasciare il carcere di Magaberry, nonostante anche i rappresentanti dello Sinn Féin, già braccio politico dell'IRA, Abbiamo incontrato lo scorso 27 luglio il ministro della giustizia David Ford della Northern Ireland Assembly per chiedere la liberazione di Brendan per motivi umanitari e dopo un colloquio della moglie con lo stesso ministro il 3 agosto non c'è ad oggi nessuna notizia su una sua eventuale scarcerazione. Attualmente si stanno svolgendo molte campagne volte a chiedere il rilascio del prigioniero repubblicano. Una mozione è passata al Derry City Council e un sit-in di protesta si è svolto nella città. La compagna di Lillis, Roisin Lynch, ha iniziato uno sciopero della fame il 21 luglio per protestare contro la carcerazione del marito. E abbiamo appena sentito Roisin, la moglie di Brendan. Ascoltate la sua voce. Come sentite dalle drammatiche parole di Roisin? Ieri era andata in carcere per visitarlo, le è stato possibile vederlo solo per 5 minuti perché poi due medici diversi l'hanno informata sulle sue condizioni di salute che erano peggiorate ed era stato trasferito in un ospedale. Subito non le è stato detto in quale ospedale, stamattina invece lo ha saputo, è nel Belfast City Hospital. Le condizioni sono molto molto gravi, dice il colore della pelle è trasparente e diafano perché evidentemente ormai ha 35 kg, un uomo di quasi 2 metri. Vi lascio immaginare quali che possono essere le sue condizioni. Noi continueremo a seguire la vicenda di Brendan Lillis, che lo avete sentito anche dalla scheda, sta muovendo una forte campagna di sensibilizzazione non solo nel Regno Unito, anzi a dir la verità nel Regno Unito passa piuttosto sotto silenzio tutto ciò che riguarda il nord dell'Irlanda, ma invece molti colleghi italiani si stanno muovendo per far conoscere la storia di Brendan. Non solo, anche la politica si è mossa, chi ci segue sa che la settimana scorsa abbiamo ospitato la vicepresidente del Parlamento Europeo Roberta Angelilli che ha fatto un'interrogazione parlamentare, anche l'Italia dei Valori ha scritto una lettera al presidente Napolitano, insomma qualcosa si sta muovendo. Vedremo come andrà a finire il caso di Brendan. Adesso le informazioni sul traffico, poi ancora Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Another morning in Deir ez-Zor begins with Syrian forces firing on civilian neighborhoods. Ongoing assaults across the country contradict the Syrian army claim that it's leaving the cities. In fact, the violence seems to be escalating. Now, Libyan rebels, Syria's neighbors, have denounced President Bashar al-Assad's violent crackdown on anti-government protests. Stiamo voltando pagina perché continua quello che è un giallo siriano, una rivolta di difficilissima lettura con ben pochi punti fermi perché le fonti sono molto poche, rimbalzano dall'interno, soprattutto a Londra, poi vengono riprese dai giornali questi video che girano ormai da settimane. È molto difficile verificarne l'attendibilità. Insomma, dobbiamo capire quali sono i punti fermi nella crisi siriana. Facciamo grazie all'aiuto del collega Lorenzo Trombetta, giornalista e analista che sta a Beirut. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a voi. Cerchiamo di fare chiarezza per quanto è possibile. Che cosa sappiamo di certo e verificato della crisi siriana? Allora, di certo e verificato sappiamo che prima centinaia, poi migliaia, poi decine di migliaia dal 15 marzo scorso si sono rivoltati in modo per lo più pacifico in diverse località siriane, probabilmente da quanto sappiamo in quasi tutte le principali località del paese, parliamo di città importanti come Damasco e Aleppo, anche se i centri di queste due città non sono stati toccati dalle manifestazioni, ma comunque le loro periferie e i loro sobborghi sì, città secondarie ma comunque che la cui popolazione lambisce più o meno 1 milione di persone, o comunque parliamo di città con centinaia di migliaia di abitanti, e in più una serie di località sconosciute anche a molti giornalisti che hanno viaggiato anche in Siria ma non sono mai andati in quelle regioni che potremmo definire remote. Quindi un paese in rivolta, e in una rivolta per lo più pacifica, per lo più lo aggiungo perché non possiamo avere conferma che non ci siano manifestanti armati. Per quanto sappiamo è da escludere fino adesso una organizzazione armata del dissenso, ovvero non ci sono queste bande armate provenienti dall'estero o finanziate, sì, da da paesi regionali operative, mentre sappiamo, e questo è un fatto, grazie un po' ai video amatoriali che chi conosce la Siria, chi c'è stato fisicamente può riconoscere, sì. Girati in alcuni luoghi riconoscibili, non è tutto non attendibile, ci sì. sono alcune immagini che sono chiaramente riconoscibili proprio per chi ha camminato in quei luoghi. È un dato di fatto che l'esercito, le forze di sicurezza sparano all'altezza d'uomo contro i civili. Questo è stato confermato anche da altri colleghi italiani, da altri colleghi stranieri che si sono trovati sul posto, sì. spesso in manifestazioni nella periferia di Damasco, ed è confermato anche giornalmente da attivisti che non solo stanno a Londra o al Cairo, ma sono anche qui a Beirut, sono a Nicosia, sì. a Cipro, attivisti di cui noi ci fidiamo, perché con alcuni lavoriamo da anni, con altri si è instaurato un rapporto di fiducia, insomma, e quindi questi sono, diciamo, i punti fermi. Ecco, tra i punti fermi, tra le cose certe, c'è di sicuro la visita di ieri del ministro degli esteri turco a Damasco. Com'è andato l'incontro con Al-Assad? Ce lo facciamo raccontare meglio da Marta Ottaviani da Istanbul. Marta, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Di certo si sa che è stata una visita molto tesa e che non sarebbe stato un incontro facile, ha avuto lui, il ministro degli esteri turco, lo ha capito fin dall'aeroporto, quando ha visto venirgli incontro non il ministro degli esteri siriano, come il suo omologo, come vorrebbe il protocollo, ma un sottosegretario. I media turchi danno giudizi contrastanti sulla visita. C'è chi dice che Davutoğlu sia andato lì sostanzialmente per dare un ultimatum al regime di Assad, dicendo appunto che la pazienza della Turchia, che fino a questo momento aveva mantenuto una posizione interlocutoria nei confronti della situazione siriana, è finita. C'è chi invece dice che il viaggio di Davutoğlu fosse un estremo tentativo di mediazione che si è risolto di fondo con un nulla di fatto, nel senso che Davutoğlu avrebbe fatto pressione su Assad chiedendo appunto riforme, soprattutto la cessazione immediata delle ostilità nei confronti della popolazione civile, e Assad avrebbe cercato di guadagnare del tempo chiedendo appunto altri giorni per potergli permettere di mettere mano alle riforme. Tra l'altro in questo momento in Turchia siamo in attesa, perché il ministro degli esteri aveva convocato i giornalisti per le 14:15 ora turca, le 13:15 ora italiana, non ha ancora parlato. E quindi ecco, ci dovrebbe essere una conferenza di Davutoğlu probabilmente su questo tema a breve. A margine voglio sottolineare alcune notizie di giornata che mi sembrano importanti. I media turchi scrivono che l'ambasciatore turco a Damasco si sta recando ad Hama, ricordiamolo, il Hama dove si è tenuto sì. l'eccidio di 10 giorni fa, la vigilia del Ramadan, e che è stato un attimo la goccia che ha fatto traboccare il vaso per quanto riguarda i rapporti tra Turchia e Siria. Lo stesso Davutoğlu aveva commentato che era inaccettabile un massacro di tali proporzioni ai danni della popolazione civile alla vigilia del Ramadan. Ci sono poi alcune notizie anche abbastanza delicate che riguardano la situazione sul confine. Sembra che, stando a indiscrezioni appunto pubblicate dai media turchi, la Siria avrebbe schierato dei carri armati a 30 chilometri dal confine e la Turchia questa mattina avrebbe deciso di rispondere con lo schieramento di droni. Queste notizie non sono state confermate però da nessun tipo di fonte governativa, quindi si tratta di indiscrezioni riportate dalla stampa. Certo che se confermate comunque confermerebbero appunto quello che è un livello di tensione piuttosto alto anche tra i due confini. Grazie Marta, ti lasciamo al tuo lavoro alla conferenza stampa, una buona giornata, un buon lavoro. Buon lavoro a voi, arrivederci. Allora, che cosa sta accadendo? La posizione di Al-Assad in effetti è sempre più solitaria, le agenzie stanno battendo nelle ultime ore un fiume di dichiarazioni di abbandono, tra virgolette, della Siria da parte del mondo arabo. L'Egitto nelle scorse ore ha parlato di un punto di non ritorno, l'Arabia Saudita ha mandato un monito, il Kuwait e il Bahrain hanno richiamato gli ambasciatori. Insomma, un Assad isolato e abbandonato, resta solo l'Iran a questo punto. Lorenzo, come vedi la situazione? Questo continuo e progressivo isolamento che Al-Assad non sembra nemmeno, sembra quasi che non se ne curi, no? Sì, questo sicuramente è il dato che emerge. Una precisazione su quanto riguarda il presunto schieramento di carri armati al confine con la Turchia. Sì. Più che uno schieramento si tratta di operazioni militari all'interno di alcune località nella provincia settentrionale, proprio alla frontiera, non un vero e proprio schieramento in funzione antiturca o per minacciare il nemico turco, ma più che altro continuano, non se ne sono mai andati da quella zona, da giugno, da quando ci fu un esodo di decine di migliaia di siriani in Turchia, molti dei quali sono ancora oltre confine, continuano quelle operazioni militari, sono riprese proprio alla vigilia dell'arrivo di Davutoğlu a Damasco, quindi semplicemente per gli ascoltatori non si tratta di un confronto fra due schieramenti di carri armati, per il momento a 30 km dal confine i siriani continuano a rastrellare, ad arrestare, a occupare le località. Per quanto riguarda l'isolamento, è un isolamento innanzitutto dal punto di vista arabo, e dello schieramento arabo più vicino agli Stati Uniti. Abbiamo notato negli ultimi giorni oltre che un consenso, anche un coordinamento diplomatico tra Washington, Ankara, le capitali del Golfo, in particolare Riyadh e i vari paesi satelliti che di fatto fanno capo a Riyadh per quanto riguarda la politica estera, e l'Egitto. Sappiamo anche come la giunta militare egiziana nel post Mubarak continui comunque ad avere stretti legami con gli Stati Uniti, quindi dopo la riunione tra la Merkel, Sarkozy e la Clinton e dopo comunque il loro unanime appello all'arresto delle violenze, dagli Stati Uniti si è quasi riverberato un appello che è arrivato agli alleati degli Stati Uniti. Non a caso anche la Giordania, il vicino forse più preoccupato di questa crisi, il vicino alla Siria più preoccupato di questa crisi per eventuali ripercussioni che potrebbe avere al suo interno, il giorno dopo la posizione congiunta di Francia, Germania e Stati Uniti ha per la prima volta rilasciato una dichiarazione timidamente di condanna nei confronti della Siria, e questo indica che gli alleati degli Stati Uniti, gli alleati arabi, si stanno muovendo ormai di concerto. Sì. L'Iran, ovviamente, sappiamo essere da più di 30 anni l'alleato storico e strategico della Siria, se dobbiamo immaginare uno scenario possiamo dire con certezza che sarà l'ultimo degli alleati della Siria ad abbandonare Damasco. Ci sono voci non confermate di numerosi agenti iraniani che addestrerebbero, addirittura eseguirebbero, farebbero parte della repressione in corso da quasi 5 mesi. Questo credo che nell'ambito di un'alleanza strategica è molto verosimile, non mi stupirei più di tanto. Certo. Se l'Iran a mandarsi i suoi uomini a proteggere un alleato importante, la cui caduta avrebbe degli effetti disastrosi sull'equilibrio, perché insomma sappiamo che sulla stessa tenuta della Repubblica Islamica. Certo, la Siria da questo punto di vista è assolutamente strategica. A scombinare le carte, se vogliamo, potrebbero entrare dirompenti 3 nuovi soggetti, Brasile, India e Sudafrica, perché stanno mandando i loro ambasciatori a Damasco. Vedremo come andrà a finire. Grazie intanto a Lorenzo Trombetta per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. What's up? Notizie dall'altro lato del mondo. E abbiamo il tempo di dare una scorsa al mappamondo, vedere che cosa accade. Vi porto innanzitutto in Libia, dove la TV di Stato ha mostrato un filmato con Khamis Gheddafi, o quantomeno una persona che gli assomiglia tremendamente. Il figlio primogenito di Gheddafi era stato dato per morto una decina di giorni fa durante un bombardamento, e come spesso accade nella vicenda libica, insomma, viene mostrato tutto il contrario di tutto, e questa volta la TV di Stato darebbe prova del fatto che appunto Khamis Gheddafi è ancora vivo. E poi tra le due Coree, dove è ancora alta la tensione, vi è stato uno scambio di colpi d'arma da fuoco nel Mar Giallo, nei pressi dell'isola di Yeonpyeong. La marina della Corea del Sud ha sparato alcuni colpi in risposta a una raffica di artiglieria della Corea del Nord, dove, secondo il governo di Pyongyang, erano in corso esercitazioni militari. E poi in Africa, in Malawi, dove il presidente Mutharika ha espresso disponibilità del suo esecutivo a mettere in campo un gruppo di contatto presidenziale per permettere all'opposizione e alle organizzazioni della società civile di esprimere liberamente le loro opinioni per lo sviluppo del paese. Questa timida concessione del premier del Malawi viene, lo sapete se ci avete seguito negli scorsi giorni, dopo settimane e settimane di proteste della società civile. La gente è scesa in strada in Malawi e la risposta da parte della polizia è stata piuttosto dura. E infine in Cile, dove di protesta in protesta gli studenti cileni sono scesi nuovamente in piazza ieri per chiedere al governo più fondi per l'istruzione pubblica. A Santiago del Cile erano ieri, pare, almeno 70.000 persone, però vi sono state manifestazioni anche in altre parti del paese. Sono poi scoppiati incidenti quando un gruppo di giovani col volto coperto ha cercato di dirigersi verso il palazzo presidenziale di Santiago del Cile. Tempo scaduto, gentili ascoltatori, grazie per essere stati con noi. Grazie veniva anche da Riccardo Poli, che ha confezionato con me il programma in redazione quest'oggi, e da Mauro De Angeli, che ha dato musica e ritmo alla puntata di quest'oggi. Non mi resta che darvi appuntamento domani 13:15 precisi, ma vi ricordo che nessun luogo è lontano.